Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E rivolgo nuovamente un appello a tutte le persone di buona volontà per unirsi nell'unanime condanna di questi crudeli abomini che stanno causando solo morte, terrore e orrore. E anche il Papa, inevitabilmente, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha detto la sua sull'abominio, appunto, che è stato agito in Belgio, a Bruxelles, e continua ad arrivare elementi nuovi, tra l'altro. Oggi ci sono molti aggiornamenti di cui parleremo durante la trasmissione. Vi chiedo ancora le vostre riflessioni. Ieri ho fatto insieme a voi questo speciale lunghissimo di 3 ore di Effetto Notte, dalle 21 a mezzanotte. Moltissimi di voi hanno chiamato, perché ieri eccezionalmente c'era il numero verde aperto, però voi continuate con le vostre riflessioni su quanto accaduto a Bruxelles e anche su alcune cose che vi dirò adesso, sulla pagina Facebook di Effetto Notte e attraverso i messaggi, gli sms al 349-238-6666, perché fra gli elementi nuovi c'è anche questa polemica, sarebbe grave se fosse vero, perché il presidente turco Erdogan ha denunciato alla CNN che uno dei 3 kamikaze che si sono fatti esplodere a Bruxelles era stato arrestato dalla Turchia, poi espulso, mandato in Belgio, segnalandolo come un foreign fighter, quindi un personaggio pericoloso, sospetto terrorista, e il Belgio invece l'aveva prima arrestato e poi l'aveva rilasciato. Se questo fosse vero, insomma, ci continuiamo a chiedere: sono l'intelligence, le forze dell'ordine, i servizi segreti sono all'altezza di quanto sta accadendo, soprattutto in Belgio, per esempio? E poi c'è anche questa allerta degli Stati Uniti, che dicono, consigliano ai propri cittadini di non viaggiare in Europa, perché dicono ci potrebbero essere altri attentati. Cosa ne pensate anche di questo aspetto? Gli albergatori italiani sono europei, anzi piuttosto preoccupati, perché dicono se ci mancano gli americani, che sono turisti, insomma, che si muovono in gran numero, ci portano denaro, la cosa non è molto confortante. Che ne pensate voi? È giusto che gli Stati Uniti dicano non viaggiate, ai propri cittadini europei, ai propri cittadini americani, non viaggiate verso l'Europa perché c'è il rischio attentati? Le vostre sensazioni, ieri ne avete raccontate molte, quali sono rispetto al sentirsi sicuri e continuare a viaggiare? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, molte altre poi saranno le notizie, parleremo per alleggerirci anche del meteo, perché da oggi sono chiuse le scuole, no? Più o meno in tutta Italia, da domani qualcuno già parte, che cosa ci aspetta per questo ponte di Pasqua? Poi parleremo anche degli europei, sono a rischio o no? Chiusura, il fatto di fare gli europei di calcio al chiuso, in situazioni molto blindate, oppure no? Intanto vi riassumo come sempre la giornata. Gli attentati a Bruxelles, un terrorista, il kamikaze di Zaventem, era già stato fermato in Turchia e rilasciato dal Belgio, e si apprende che gli attacchi erano previsti a Pasquetta ma sono stati anticipati a causa dell'arresto di Salah. Le vittime degli attentati, il bilancio di 32 morti e 270 feriti, ancora dispersa l'italiana Patricia Rizzo. L'allarme degli Stati Uniti, non andate in Europa, possibili nuovi attacchi, la paura degli albergatori che dicono temiamo disdette dagli americani. L'incidente stradale in Spagna, i corpi di tutte le ragazze che hanno perso la vita dovrebbero rientrare in Italia entro domani. Istituti bancari, c'è il via libera della Banca Centrale Europea al matrimonio tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Passa intanto la fiducia sul decreto banche, voto finale stasera. Reato di omicidio stradale, il presidente Mattarella firma la legge. Tecnologia e privacy, l'FBI si fa aiutare da un hacker per sbloccare l'iPhone del killer di San Bernardino. Partiamo quindi dalle novità che vi dicevo sugli attentati di Bruxelles, ne sono arrivate varie oggi. Il bilancio ufficiale provvisorio intanto è di 32 morti e 270 feriti. Sono stati identificati i 3 kamikaze del comando terroristico, si tratta dei fratelli Khalid e Ibrahim Bakroui, considerati complici di Salah Abdeslam, e poi l'altro identificato è Najim Lacroix, considerato l'artefice delle stragi di Parigi, e sarebbe quello che uno dei due fratelli, anzi, è quello che poi la Turchia dice di aver fermato a giugno dell'anno scorso di aver estradato in Belgio. Il Belgio l'ha arrestato e poi invece lo ha rilasciato. Il Belgio però per il momento smentisce e dice che no, era stato invece rimandato in Olanda. Altra notizia è che gli attacchi di Bruxelles erano pianificati per il giorno di Pasquetta, però pare che l'arresto del super ricercato degli attentati di Parigi, Salah Abdeslam, li abbia anticipati. Poi però ci colleghiamo direttamente con Bruxelles, così avremo più dettagli. Intanto vi dicevo che arriva l'allerta dagli Stati Uniti: non andate in Europa, possibili nuovi attacchi, quindi c'è la paura degli albergatori europei che temono disdette da parte dei turisti americani, anche quelli italiani. E a spingere da tempo per la creazione di un'intelligence europea è soprattutto l'Italia. Ne abbiamo parlato moltissimo anche ieri, ma insomma sono mesi che ne parliamo. Molti paesi non hanno la cultura della condivisione come noi, commenta a Radio 24 il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, intervistato da Raffaella Calandra. E da ora, perché vi è necessità di una maggiore completezza e circolazione delle informazioni. Se tutto ciò si realizza, e non è impossibile realizzarlo anche in tempi ragionevolmente brevi, è una cosa estremamente importante. La lotta al terrorismo si gioca essenzialmente sulla prevenzione. Più, diciamo, queste informazioni circolano in modo tempestivo, più è facile prevenire. Poi c'è più sullo sfondo la figura del procuratore europeo, che sta avendo nella sua costruzione un percorso piuttosto accidentato, perché non c'è accordo sul disegno di procuratore europeo. Bisogna fondare la cultura del coordinamento e della condivisione delle informazioni. Noi italiani ce l'abbiamo, non tutti gli altri paesi ce l'hanno nello stesso grado nostro. E in vista delle festività ci sono controlli intensificati in Italia, a Roma in particolare. Si prevede una Pasqua blindata a Roma, l'allerta è massima in previsione degli appuntamenti della Settimana Santa, che però restano tutti confermati, dalla Via Crucis di venerdì sera alla domenica in Piazza San Pietro. Le misure di sicurezza nella capitale dopo gli attacchi di Bruxelles sono state infatti rafforzate, anche se l'allerta rimane sempre a livello 2, e cioè quella precedente l'attentato in corso, e anche se l'antiterrorismo non rileva minacce concrete specifiche nei confronti del nostro paese. A ribadirlo è stato anche Renzi durante la riunione con i capigruppo a Palazzo Chigi. Abbiamo predisposto tutte le misure necessarie, ha rassicurato il Premier. In particolare è potenziata la sicurezza negli aeroporti, anche nelle aree pre-imbarco. Stiamo valutando controlli prima dell'entrata degli scali, ha detto il ministro dell'Interno Alfano, ma non illudiamoci che alzando i presidi all'ennesima potenza si azzeri il rischio. Occorre soprattutto una condivisione delle informazioni a livello europeo, dice Alfano, che venerdì a Bruxelles al vertice dei ministri dell'Interno chiederà di accelerare sul PNR il registro dei nomi dei passeggeri. Sta roba del PNR non può diventare la telenovela europea. Il Parlamento europeo, a tutela della privacy, ha frenato, dopo il Bataclan ha accelerato, e quindi credo che sia arrivato il momento buono. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso delle studentesse morte nell'incidente in Spagna. Il rientro in Italia di tutte le salme dovrebbe essere previsto per domani. È previsto per domani, in tarda mattinata, all'aeroporto di Pisa, il rientro delle ultime 4 salme delle studentesse italiane morte nell'incidente del bus in Catalogna. Nell'aereo con le bare di Elisa Valent, Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e Valentina Gallo viaggeranno i familiari e 2 dei 3 giovani italiani feriti, mentre la modenese Laura Ferrari, intrasportabile per ora dopo un'operazione alla testa, rimane ricoverata a Barcellona. Per la friulana Elisa Valent i funerali saranno celebrati sabato mattina nella sua Venzone, mentre ad attendere l'aeroporto le 3 altre ragazze fiorentine ci sarà anche il rettore dell'Università di Firenze, dove tutte studiavano economia. Ieri sera, ad accogliere tra gli altri le prime 3 salme rientrate, sempre allo scalo pisano, c'erano il ministro dell'istruzione Stefania Giannini e il sindaco della città. La genovese Francesca Borrello, la romana Elisa Scarascia Mugnozza e la torinese Serena Saracino sono poi state trasportate nelle rispettive città. Per Serena, Torino ha deciso per domani il lutto cittadino. Intanto la polizia catalana ha confermato oggi che l'ipotesi più credibile per spiegare l'incidente è quella del colpo di sonno dell'autista, che rimane ricoverato in gravi condizioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla politica, con in primo piano il disegno di legge sulle banche. In serata dovrebbe arrivare il voto finale. Con la fiducia numero 52 per il governo Renzi, Palazzo Chigi blinda il decreto sul credito cooperativo e le modifiche apportate in Commissione Finanze della Camera. Il testo sarà dalla prossima settimana al Senato per il via libera definitivo che, pena la decadenza del provvedimento, deve arrivare entro metà aprile. Il passaggio a Montecitorio ha migliorato il decreto, commenta il vice ministro all'economia Zanetti. Soprattutto preservando le riserve indivisibili che devono restare del mondo mutualistico. Cuore della riforma, l'aggregazione in una holding delle BCC con la possibilità possibilità però di restarne fuori, per le banche con un patrimonio superiore ai 200 milioni di euro viene estesa anche agli intermediari finanziari la garanzia statale per le cartolarizzazioni, stop all'anatocismo, ossia gli interessi sugli interessi, sconto del 30% sulle multe se pagate entro 5 giorni dalla contestazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la vigilanza bancaria europea, che fa capo alla Banca Centrale Europea, avrebbe dato un via libera informale alla fusione fra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare dopo le modifiche sulla capital action richiesta da Francoforte sulla governance della banca post fusione, cioè della gestione dell'amministrazione della banca. E il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invece firmato il disegno di legge sull'omicidio stradale, che è appunto reato che adesso è legge. Sul fronte dell'amministrativa, invece, riflettori puntati su Roma e Napoli. Berlusconi tiene il punto e a Roma conferma la candidatura di Bertolaso. Marchini e Meloni non hanno i numeri per andare al ballottaggio, sostiene il leader di Forza Italia, che oggi ha escluso l'ipotesi di un ticket Meloni-Bertolaso e ha replicato così agli ex alleati di Lega e Fratelli d'Italia. Non mi si venga più a dire che in me c'è l'intenzione di collaborare con questo governo, con il Partito Democratico e con il signor Renzi, perché questo è una cosa assolutamente infondata, contraria a quello che invece penso e contraria ai traguardi che mi sono dato. A tenere banco nel centro-sinistra è invece la situazione a Napoli. La Commissione Nazionale di Garanzia del PD ha respinto il terzo ricorso presentato da Bassolino contro il risultato delle primarie, dichiarandosi incompetente e giudicandolo infondato nel merito. Rifletterò su come continuare la mia battaglia per Napoli, ha fatto sapere Bassolino, al quale nel frattempo è arrivato un invito a lavorare assieme dalla vincitrice delle primarie, Valente. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Estero adesso, con Obama che dopo Cuba è stato accolto oggi dal presidente argentino Mauricio Macri alla Casa Rosada, la sede della presidenza davanti alla Plaza de Mayo nel cuore di Buenos Aires, per il primo appuntamento ufficiale della sua visita in Argentina. E poi notizie arrivano anche dalla Siria, è un'ONG a dare questa notizia, un'organizzazione non governativa. Sono 380, tra i quali 99 bambini e ragazzi minorenni civili uccisi in 18 mesi di bombardamenti dalla coalizione internazionale a guida Stati Uniti contro l'ISIS in Siria, lo riferisce oggi l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, che afferma di aver potuto documentare nei stessi raid la morte di almeno 4.108 miliziani dell'ISIS e 136 del fronte al-Nusra, che è la branca siriana di Al-Qaeda. E adesso questa notizia di tecnologia e privacy, sapete di questa polemica che c'è stata per settimane tra l'FBI e Apple per poter decriptare il cellulare del killer di San Bernardino, della strage di San Bernardino? Ebbene, l'FBI si è fatta aiutare da un hacker, quindi l'iPhone del killer di San Bernardino non sarebbe più un rompicapo, grazie appunto all'aiuto di questo hacker che ha scoperto una vulnerabilità nel sistema di Cupertino. La soluzione sarebbe stata fornita perché Apple, sentite un po', a differenza degli altri big, non offre ricompense a chi scopre falle di sicurezza, e quindi questo hacker che l'ha scoperto, cioè, visto che non mi pagano, lo do direttamente all'FBI, che probabilmente l'ha pagato profumatamente. Per chiudere il calcio con il nostro Dario Ricci, parliamo di Champions League. Dario, sì, è vero? Sì, Roberta, perché noi eravamo convinti che non ci fossero più squadre italiane nelle coppe europee, no? Però di fatto una ancora ce n'è, ed è il Brescia femminile, che oggi ha giocato la gara d'andata dei quarti di finale della Champions League Donne, un torneo che sta acquisendo sempre maggiore visibilità e anche rilevanza tecnica. Devo dire, per le rondinelle partita sfortunata, perché le tedesche del Wolfsburg in casa si sono dimostrate ostacolo insuperabile, hanno vinto per 3-0 e messo quindi una seria ipoteca sul passaggio del turno. Ma insomma, il fatto che Brescia se la stia giocando a quel livello fa ben sperare per il futuro, magari, che ne so, fra un paio d'anni racconteremo tutt'altro risultato, no Roberto? Grazie Dario Ricci, ti ringrazio per aver ricordato la Champions League femminile. Poi sentiremo ancora Dario, perché ci parlerà a proposito della paura di attentati, di cosa ne sarà degli europei di calcio che dovrebbero iniziare a giugno. Intanto, prima di aggiornare chi sta viaggiando, per questa prima pausa, vorrei leggere qualche vostro messaggio tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, sia su l'adeguatezza o meno dei servizi segreti, dell'intelligence europea, frammentata naturalmente, in particolare quella belga, visto che, secondo quanto dice il presidente turco Erdogan, uno dei kamikaze era stato già fermato in Turchia giugno scorso, era stato estradato in Belgio, il Belgio l'aveva prima arrestato e poi rilasciato perché non riteneva che ci fossero elementi per trattenere questo sospetto terrorista. E in più c'è l'altra notizia che sale la tensione negli Stati Uniti dopo gli attentati dell'ISIS a Bruxelles e il Dipartimento di Stato americano sconsiglia ai propri cittadini di viaggiare in Europa. Cosa ne pensate? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Emanuele da Mantova dice: gli Stati Uniti tutelano giustamente i loro cittadini, esattamente come fa la Farnesina sul sito internet, dando indicazioni su quali paesi sono maggiormente a rischio attentati. Poi invece un altro messaggio dice: i servizi all'altezza del problema del terrorismo, domanda mal posta, prima i governi devono decidere per una netta distanza dalla dottrina geopolitica dello scontro delle civiltà a cui rispondono gli invasati, così dice un ascoltatore o ascoltatrice. Non si firma. Gianluca invece da Roma scrive: assolutamente no, i turisti dagli Stati Uniti non devono farsi prendere dal panico, e se ci fermiamo facciamo solo il gioco dei terroristi, e poi gli Stati Uniti non sono meno a rischio dell'Unione Europea, quindi la possibilità è ovunque. Continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme con le notizie, con gli aggiornamenti. Continuiamo a parlare naturalmente degli attentati di Bruxelles e poi parleremo anche di altre cose, però adesso le domande che vi ho sottoposto per le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso i messaggi SMS al 349-238-6666, sono principalmente queste le domande. Una è: visto che appunto, come poi ricorderò anche dopo, Erdogan, presidente turco, oggi ha detto che uno dei kamikaze che si è fatto saltare nell'aeroporto in realtà era già stato fermato in Turchia l'anno scorso, d'estate, a giugno, era stato mandato estradato in Belgio, il Belgio l'aveva in un primo momento trattenuto, poi l'aveva rilasciato perché non riteneva che ci fosse necessità di trattenerlo. E poi che ne pensate, quindi sono adeguati? Questa è la polemica che gira molto ancora di più in questi giorni, no? Sull'adeguatezza dei servizi segreti, dell'intelligence, in particolare in Belgio. E poi l'altra domanda è: cosa ne pensate dell'allarme lanciato dagli Stati Uniti dal Dipartimento di Stato, che dice ai propri cittadini, agli americani: non viaggiate in Europa perché sono possibili altri attentati? Vado sulla pagina Facebook di Effetto Notte e alcuni messaggi sono, per esempio, questo di Alberto, che dice: ola in bella Europa, invece di piangere sul latte versato si rende conto che è una guerra contro Daesh e si comporta di conseguenza, oppure sparirà nel giro di 20 anni per rinascere come colonia araba. Continuate con le vostre riflessioni, vi ricordo quali sono le notizie principali se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21. Comando di 4 attentatori in Belgio negli attentati, la Crui è uno dei kamikaze, quello che era stato appunto cercato insieme a Salah Abdeslam, e Bakrui consegnato dalla Turchia, come vi dicevo, in un primo tempo in estate, ma il Belgio poi lo fece liberare. Bruxelles ci sarebbe l'italiana Patricia Rizzo tra i morti, è stato poi trovato anche un altro cadavere in aeroporto che era un po' più lontano degli altri perché l'esplosione lo addirittura fatto allontanare così rispetto a dove era avvenuta l'esplosione. Le vittime sarebbero ufficialmente per il momento 32, si spera bilancio definitivo. Domani ci sarà un consiglio dei ministri degli interni dell'Unione Europea e poi Renzi dà la notizia che ci sarebbero 400 combattenti dell'ISIS in Europa, però dice: è stata presa ogni misura ma non c'è una minaccia specifica per quanto riguarda il nostro paese. Intanto naturalmente Bruxelles continua a essere sotto shock e cerca di ricominciare però a vivere con le scuole aperte, anche i mezzi di trasporto che stanno riprendendo. Vi dicevo di questa allerta degli Stati Uniti, dice ai propri cittadini: non andate in Europa, non viaggiate verso l'Europa. Quindi, duplice attentato di ieri a Bruxelles, per rifare un po' il punto, due attentati, uno nel principale aeroporto della capitale belga, Zaventem, e poi l'altro la fermata della metropolitana 1 di Malbec, a poca distanza dalle istituzioni europee. Sono, secondo il bilancio ufficiale, 32 i morti, 270 i feriti. Si dà per dispersa un'italiana, che era una funzionaria dell'Unione Europea, Patricia Rizzo, anche insomma se le speranze non sono moltissime. E poi per quanto riguarda le indagini, si sa che sono 4 i terroristi coinvolti negli attentati di ieri, 3 sono morti da kamikaze, il quarto è in fuga. Ma ne parliamo con Maura Bertanzon da Bruxelles. Ciao Maura. Ciao, ciao Roberta. Che stiamo seguendo moltissimo in questi giorni, si trova a Bruxelles, sta facendo un grande lavoro. Maura, senti, fra le altre cose, intanto appunto leggevo che pare che l'attentato fosse previsto per Pasquetta, ma che sia stato accelerato dall'arresto di Salah Abdeslam. E poi addirittura una TV francese, TF1, avrebbe detto che i kamikaze volevano proprio vendicare Salah. Ti risulta? Mi risulta, nel senso che confermo le voci che vedete anche voi sui media belgi o francesi che si susseguono in queste ore, perché il quadro è molto in divenire e anche quello che viene annunciato magari da un giornale, da un sito, da una televisione può essere anche smentito. Una conferma ne è quello che si pensava essere l'arresto di Lachraoui stamattina, che poi è stato smentito, addirittura Lachraoui è diventato il terzo kamikaze, il secondo kamikaze di Zaventem, quindi veramente un quadro in evoluzione. In questo quadro posso dirvi che in realtà il Belgio smentisce il fatto che smentisce quanto ha detto Erdogan, smentisce che Ibrahim el-Bakrawi sarebbe stato estradato dalla Turchia nell'estate scorsa. A noi non ce l'hanno mai mandato, non l'hanno estradato, l'hanno mandato addirittura nei Paesi Bassi, noi non eravamo a conoscenza e quindi questo conferma ancora una volta voci che si susseguono e che cambiano di continuo. Questo è un po' il quadro della situazione, anche se la procura comunque ha confermato oggi che i fratelli Khalid e Ibrahim sono due dei kamikaze, uno si è fatto esplodere a Malbec e l'altro a Zaventem. Maura, fra l'altro, fra le varie notizie c'è anche, per esempio, il New York Times pubblicava questa notizia che l'Interpol avrebbe diramato un'allerta di livello rosso a tutte le polizie del mondo per Khalid al-Bakrawi. Quindi sembra, insomma, che di segnalazioni di vario tipo, è quello che dice Erdogan in Turchia, e questo l'allarme, l'allerta rossa in tutto il mondo per Bakrawi, diciamo, alimentino questa polemica sui servizi segreti, sull'intelligence belga. Lì nel paese, in Belgio, si avverte questa polemica, se c'è dibattito politico, Maura? Ma c'è stato soprattutto negli ultimi mesi, anche fin dalla settimana successiva agli attentati di Parigi, quando c'è stato quello che è stato chiamato il famoso lockdown, in cui appunto le autorità e la polizia, si dice, avessero pasticciato un po' perché avevano tenuto l'allerta massima per più giorni, però nel contempo avevano riaperto le scuole, quindi da quel momento lì è tutto anche un susseguirsi un po' polemiche tra i cittadini di Bruxelles e del Belgio su come le forze dell'ordine abbiano fronteggiato questa emergenza, coordinamento anche tra polizia, servizi segreti belgi, anche rispetto al quadro europeo. Certo che l'arresto di Salah Abdeslam di venerdì scorso era stato accolto anche come un grande successo e quindi aveva un po' messo anche a tacere tutte le polemiche, diciamo, o qualsiasi voce maliziosa che potesse essersi sviluppata negli ultimi mesi. E poi Maura, invece, parlando delle vittime o dei dispersi, non si hanno ancora ulteriori notizie su questa italiana che era una funzionaria dell'Unione Europea, Patricia Rizzo? Non è stato confermato ancora nulla su di lei, se non appunto che è dispersa. È stato però aggiornato il conto a 300 feriti e quindi sale ancora la conta di 300 feriti, di cui 61 in terapia intensiva e 4 non ancora identificati. Questo è il conto degli ultimi minuti. Ti ringrazio Maura Bertanzon, grazie e buon lavoro. Ciao Maura. A voi, ciao. Europa 24 notte. E continuiamo a parlare naturalmente di Belgio, degli attentati, con Sergio Nava, che è nostro collega inviato lì a Bruxelles. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Che ti sei occupato oggi, hai seguito un po' quelle che sono le reazioni dei leader delle istituzioni europee. Avramopoulos, commissario europeo, ha denunciato manca la fiducia tra gli Stati. Juncker, presidente della Commissione europea, dice la cooperazione tra i 007 è ancora ferma al 99. Quindi continua questa polemica sulla mancanza di un coordinamento, di una politica unica europea rispetto alle indagini e all'intelligence che si auspica da tempo, un'intelligence che sia unica, no? In Europa, sì, coordinata. Sì, sì, sembra un po' un dialogo tra sordi, bisogna dire la verità, perché insomma, se guardiamo le dichiarazioni, di oggi, innanzitutto ricordano molte dichiarazioni, molte dichiarazioni di intenti, soprattutto seguite ai due attentati di Parigi e ad altri attentati ancora, magari di minore intensità. In più, insomma, c'è chi chiede una cosa e c'è chi ne chiede un'altra, ma non sembrano incrociarsi. Allora, per fare il punto, la Commissione europea dice manca una vera intelligence, manca una vera un coordinamento. Gli strumenti ci sono, però gli stati membri, insomma, Avramopoulos è stato, ma anche Juncker, la sua sede abbastanza espliciti, poi diversi sistemi nazionali sostanzialmente sono gelosi delle loro prerogative e delle loro informazioni e non collaborano. E poi c'era il premier francese Manuel Valls. Sentiamo magari un passaggio. Sentiamo. Il faut mettre en œuvre ce qui a été décidé. C'est vrai pour la directive sur les armes. Et là, le président vient d'avoir des mots. Diciamo che Valls ha un po' fatto un elenco della spesa, no? Delle direttive, delle misure, no? Finire di implementare in qualche modo. Allora, ha citato il controllo esterno delle frontiere, il traffico d'armi, l'approvazione del PNR, che poi è lo scambio dei dati sui passeggeri aerei. Lì manca un voto finale dell'Europarlamento che è a sua volta preoccupato dai rischi per la privacy dei passeggeri, eccetera. Però dialogo tra sordi, perché appunto da un lato Juncker e Avramopoulos vanno a colpire il punto più sensibile di intelligence abbastanza forte in Europa, come quella francese, quella inglese, penso, no? Sono forse le più, insieme alla tedesca, quelle diciamo più avanzate, e il rappresentante del governo francese, il premier Valls, che va a parare su altre manchevolezze, giustamente, però dialogo tra sordi, perché alla fine non sembrano così tanto incrociarsi. Speriamo, e dico speriamo perché poi insomma, il passato insegna che i passi sono troppo lenti in Europa, che domani questa riunione straordinaria dei ministri dell'interno prevista nel pomeriggio qui a Bruxelles, decisa anche su impulso della stessa Commissione europea, che ha chiesto di dare un segnale subito, porti a qualche avanzamento ulteriore, a qualche segnale soprattutto ulteriore, che rassicuri un po' l'opinione europea, l'opinione pubblica europea, che si va verso implementazioni ulteriori di un coordinamento, perché effettivamente se, come dice qualcuno, ci fosse una vera intelligence europea, forse qualcosa saremmo riusciti a evitare ancora, oltre a quello che già si è riusciti ad evitare, qualcosa in più. Tutto sommato. Sergio, per chiudere, visto che sei lì da ieri a Bruxelles, avrai avuto modo un pochino di girare, che città hai trovato? Perché comunque insomma la città sta cercando di tornare a vivere, no? Sono state riaperte. È molto strana, devo dire, è molto strana come sensazione, nel senso che da un lato c'è una città normale, ma coesistono. Oggi sono stato soprattutto nel centro, tra la stazione, la piazza della Borsa, che è diventato un po' luogo simbolo, se vogliamo, della commemorazione. C'è stato il maggior ritrovo per il minuto di silenzio, la Grand Place e le vie commerciali che poi vanno verso la Gare du Nord, e quindi il centro amministrativo di uffici che c'è intorno alla Gare du Nord, quindi il centro, diciamo, proprio il cuore di Bruxelles. Ed è una sensazione strana, perché insieme coesiste un mondo normale e un mondo anormale nella sua militarizzazione. Cioè il mondo normale si passeggia nella Rue Neuf, che è la via dei negozi, tutto aperto, non tantissime persone, però comunque si fa shopping, si va in giro, c'è la gente nei caffè, nei ristoranti, eccetera. E poi sempre nella stessa zona trovi a me abbastanza impressionato, devo dire, la stazione metro di De Brucker, che è una delle più centrali, dove da lontano ho visto un assembramento di persone, pensavo ci fosse qualcosa, mi sono avvicinato e ho notato che c'era questo piccolo assembramento di persone, perché in realtà era una fila di fronte a dei militari che chiunque entrava in quell'assessoramento gli faceva aprire la borsa, vedevano cosa aveva. Ecco, hanno cominciato a fare questi controlli, per cui sono create file all'ingresso delle metropolitane. Un po' come in quei film, no, catastrofici, in cui vedi le città dopo... Un po' da day after, come si dice. Esatto, e devo dire che però non c'è poi alla fine una sensazione così, se vogliamo... tensione come ci sarebbe in uno di questi film catastrofici, perché come dicevo la gente fa la sua vita tutto sommato normale, con i disagi che ci sono, perché poi i trasporti funzionano un po' a singhiozzo, oggi la metro ha chiuso alle 19, però poi si assistono a queste scene in cui vedi i militari davanti alle stazioni, i pattugli militari, macchine militari, blindati, insomma una città, non lo si può negare, quasi tutto militarizzata, almeno nei suoi punti sensibili, però ci sono due mondi che coesistono e speriamo che il mondo, diciamo, più normale non ceda, perché insomma abbia la gente continua a fare le sue cose. Esatto. Grazie Sergio Nava da Bruxelles. Ciao. Grazie Sergio, buon lavoro. Ciao, grazie. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Tra poco abbiamo ancora una breve pausa, però ancora qualcuno dei vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Dice questo ascoltatore, ascoltatrice, non si firma almeno un nome d'arte, mettete qualcosa. Mi pare ragionevole l'allerta degli Stati Uniti, perché devono rischiare, vi dicevo prima, che adesso continuano ad arrivare agenzie su questo allarme che gli Stati Uniti mandano ai loro cittadini, ai cittadini americani, dicendo evitate di viaggiare in Europa perché sono possibili altri attentati. Intanto si preoccupano gli albergatori europei, e non mi preoccupo io, Lucia, dico questa ascoltatrice che mi dice lei trova strano solo per l'aspetto economico. Sono io che trovo strano l'aspetto economico, sono gli albergatori che dicono siamo preoccupati. Quindi legittima, diciamo, la decisione degli Stati Uniti, legittima la preoccupazione degli albergatori, siccome sono tanti cittadini statunitensi che viaggiano per il mondo e vengono in Europa, e sono anche quelli che hanno prenotato, molti hanno prenotato, e quindi c'è il rischio che disdicano. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, Roberta Giordano sempre con voi, con me il vostro ascolto, attento, paziente, e i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche attraverso gli sms al 349-238-6666. Vi ho chiesto stasera, a proposito delle notizie che sono arrivate oggi come aggiornamenti dopo gli attentati di Bruxelles, se effettivamente si può ritenere che l'intelligence, i servizi segreti, in particolare quelli belgi in questo momento, siano all'altezza. Da più parti, no? Si critica l'inadeguatezza dei servizi segreti belgi, visto che ieri anche leggevo in diretta quel lungo speciale che ho fatto con voi dalle 21 a mezzanotte, c'era il ministro dell'interno belga Jambon che ha detto ieri, leggevo proprio questa agenzia, questa dichiarazione: siamo stupiti, ci aspettavamo un attentato ma siamo stupiti delle proporzioni di questo attentato, insomma ha detto da un ministro dell'interno e poi di un paese abbastanza sotto tiro. Fra l'altro invece l'altra domanda che vi ponevo, al di là dell'adeguatezza o meno, di come sentite le vostre sensazioni sulla sicurezza, c'era questa allerta lanciata dal Dipartimento di Stato americano che dice ai propri cittadini: cercate di non viaggiare, vi sconsigliamo di viaggiare in Europa perché sono possibili altri attentati. Quindi i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Sandro Minella da Torino dice: per un cittadino americano è statisticamente più rischioso andare a scuola che viaggiare in Europa. Probabilmente Sandro si riferisce al fatto che ogni tot nelle università americane qualche sparatoria. Poi invece dice Daniele: salve Roberta, mi sfugge come Daesh possa voler vendicare uno che in fondo li ha traditi non facendosi esplodere e nascondendosi. Quindi si riferisce a Salah Abdeslam, visto che da alcune notizie risulterebbe che è stata proprio una volontà di vendicare il suo arresto. Ne parleremo tra pochissimo con un esperto di geopolitica, ma intanto vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. Appunto, gli attentati di Bruxelles, un terrorista, il kamikaze di Zaventem, era già stato fermato in Turchia e rilasciato dal Belgio, e si apprende che gli attacchi erano previsti a Pasquetta ma sono stati anticipati a causa dell'arresto di Salah. Le vittime degli attentati, il bilancio di 32 morti e quasi 300 feriti, ancora dispersa l'italiana Patricia Rizzo. L'allarme degli Stati Uniti: non andate in Europa, possibili nuovi attacchi. La paura degli albergatori, dicono, temiamo disdette dagli americani. L'incidente stradale in Spagna, i corpi di tutte le ragazze che hanno perso la vita dovrebbero rientrare in Italia entro domani. Istituti bancari, c'è il via libera della Banca Centrale Europea al matrimonio tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Adesso una dichiarazione del ministro dell'economia Padoan che dice: le riforme funzionano, le popolari cambiano, più grandi, più forti, più trasparenti. Reato di omicidio stradale, il presidente Mattarella firma la legge. Poi tecnologia e privacy, l'FBI si fa aiutare da hacker per sbloccare l'iPhone dei killer di San Bernardino. Quindi prima abbiamo ricostruito un po' quelli che sono gli elementi relativi agli attentati di Bruxelles, quali sono stati gli aggiornamenti, le reazioni dei leader delle istituzioni europee. Adesso parliamo con Vittorio Emanuele Parsi, che saluto. Buonasera Vittorio Emanuele. Esperto di geopolitica, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, collaboratore del Sole 24 Ore. Allora, da più parti, no, si dice, sembra ormai un tormentone già da mesi, si diceva serve un sistema di difesa comune col presidio delle frontiere e soprattutto un coordinamento delle forze di intelligence. Però, Vittorio Emanuele, nel momento in cui apprendiamo, se è vero, perché Erdogan ha detto questo alla CNN, il presidente turco, che uno degli attentatori era stato arrestato in giugno in Turchia, era stato avvisato il Belgio a luglio, era stato estradato in Belgio e poi il Belgio lo aveva in un primo tempo arrestato e poi rilasciato. Adesso il Belgio smentisce e dice no, in realtà era stato mandato in Olanda. Boh, per il momento non si capisce. Però in base a questa notizia, in base anche alla denuncia oggi del presidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, Brok, che ha detto solo 5 paesi in Unione Europea forniscono i dati della sicurezza all'Europol, che è questa polizia europea. Che cosa dobbiamo pensare quindi, Vittorio Emanuele? Sicuramente ci sono delle falle, degli errori nei sistemi di sicurezza in alcuni paesi, ed è chiaro che nel momento in cui ci sono giurisdizioni nazionali differenti, anche proprio semplicemente le prassi giuridiche, i codici diversi, possono portare allo scarcerazione di un tizio in un paese che se per caso invece fosse stato estradato in un altro sarebbe rimasto in galera. Questo è un problema che, se ci pensate, c'è anche per alcuni aspetti all'interno degli Stati Uniti tra le giurisdizioni dei diversi stati. Quello che negli Stati Uniti fa la differenza è che esistono reati federali che sono perseguiti dalla polizia federale e dai magistrati federali e quindi rimediano questo problema. Ed è quello di cui si parla per l'Europa, una polizia federale europea, un'intelligence federale. Però dimentichiamo che tutto questo è possibile solo se c'è perlomeno una convergenza delle politiche e dei governi nazionali. Perché quando tu dici giustamente solo 5 stati forniscono informazioni sensibili all'Europol, questo mica lo decidono i funzionari, questo lo decidono le classi politiche, i governanti. Questo è il punto fondamentale. Se non convergono le politiche e non si stabilisce come combattere l'ISIS all'interno, in difesa, e come combattere l'ISIS all'esterno, in attacco, e non lo si fa insieme, è inimmaginabile che poi ci sono delle agenzie che magicamente realizzano una volontà comune che non esiste. Vittorio Emanuele, a proposito appunto di come si attacca ISIS, Obama, presidente americano, ha promesso ancora una volta assistenza nelle indagini. Hillary Clinton, vedevo che diceva, adesso tocca agli Stati Uniti essere accanto all'Europa, rispetto all'Europa che nel 2001 con gli attentati di Torri Gemelle, no, si era detta solidale, è stata così vicina agli Stati Uniti. Intanto ci vogliono gli Stati Uniti per aiutarci, uno da una parte, e dall'altro spesso ultimamente si parla di connivenze anche agli Stati Uniti, di una lotta timida nei confronti dell'ISIS. Diciamo che intanto c'è un cambio di presidenza in arrivo, dipenderà chi sarà il nuovo presidente, di sicuro non sarà più Obama. Obama ha fatto alcune cose importantissime, come l'accordo con l'Iran sul nucleare, su altre cose ha fatto meno bene, l'intervista in cui rivendica la timidezza mostrata nei confronti di Assad e una ricostruzione prodomo sua, diciamo così, una ricostruzione prodomo sua dell'efficacia della sua azione. Nella lotta all'ISIS gli Stati Uniti sono stati un po' più timidi, in questo hanno assecondato però la timidezza di molti paesi europei. Io credo che, così come bisogna innalzare le misure difensive all'interno, se non si va a sradicare la fonte di radiazione, di attrazione, di proselitismo all'esterno, non vinceremo mai questa battaglia. Per fare questo gli Stati Uniti servono. Vedo anche la Cina che si pronuncia adesso su questo, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse non l'avevo vista. Dice: dopo gli attacchi terroristici di Bruxelles, a soli pochi mesi da quelli di Parigi, l'Europa, c'è su un importante giornale Global Times in lingua inglese, ma in Cina, dice: a soli pochi mesi da quelli di Parigi di attentati, l'Europa non sembra preparata ad affrontare il terrorismo. La spinta collettiva al contrasto è più apparente che reale, dice la Cina. Quindi arrivano critiche anche dalla Cina. Ma chi potrebbe pensare che non sia così? A parte tante chiacchiere, quello che abbiamo visto di efficace, sì, qualche azione di contrasto è stata svolta sicuramente, ogni tanto sappiamo che qualche tizio viene espulso, ok? In Italia piuttosto che in altri paesi, ma non è che abbiamo molto di più per il momento. Quindi è oggettivo che non stiamo muovendoci molto bene. È evidente che qualcosa non sta funzionando, ma ripeto, quello che non sta funzionando è il coordinamento politico. Giusto, sempre di rimessa rispetto all'ISIS. Stiamo difendendo ai 5 metri la nostra linea di meta. Prima o poi ce la fanno la meta. Non è che può giocare 80 minuti in difesa e sperare che non passino. Vogliamo andare a giocare di là o no? Questa è la questione che dobbiamo decidere. Su questo punto interrogativo, Vittorio Emanuele Parsi, ti ringrazio e ti saluto. Ciao. Grazie, Vittorio Emanuele. Ciao, viabilità. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, ancora tra i vostri messaggi, per esempio questo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, di Luciano dice: col fatto che gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di viaggiare in Europa perché temono nuovi attentati, dice Luciano, una stupidaggine, gli attentati non sono datati, avvengono quando lo decidono questi fanatici, allora anche gli europei non dovrebbero andare in America visto che una nazione è soggetta ad attentati. Adesso vi ricordo le altre notizie. Comando di 4 attentatori, la Crui è uno dei kamikaze, è stato quindi identificato, ma Crui, uno dei due fratelli, è stato consegnato, la Turchia dice che è stato consegnato a giugno, ma il Belgio lo fece liberare. Poi ci sarebbe un'italiana, Patricia Rizzo, tra i morti, che al momento sarebbero 32, e circa 300 i feriti. Domani ci sarà un consiglio dei ministri dell'interno europei. E poi Bruxelles continua a essere sotto shock, ricorda i propri morti ma cerca di ritornare a vivere, scuole aperte, metropolitane però con grossi controlli. E poi la notizia che l'FBI si fa aiutare da hacker per sbloccare l'iPhone del killer di San Bernardino. Rimanendo sulla tensione generata naturalmente dagli attentati in tutta Europa e non solo, Dario Ricci, ieri Giancarlo Abete qui a Radio 24, vicepresidente dell'UEFA, aveva detto che c'è rischio per la 15ª edizione dei campionati europei di calcio che si giocheranno tra giugno e luglio, perché potrebbero essere fatti a porte chiuse o blindati? Ma direi che questa è la cornice, in realtà Abete ha detto che tecnicamente può esistere il rischio di partite a porte chiuse per motivi di sicurezza, ha anche detto che chiaramente l'appuntamento degli europei di Francia, che scatteranno, lo ricordiamo, il 10 giugno, finalissima poi il mese dopo, il 10 luglio a Parigi, sono appunto a giugno, quindi è chiaro che prendere decisioni adesso sull'onda dello shock di quanto è accaduto a Bruxelles potrebbe essere prematuro, addirittura sbagliato. È chiaro che tutto quello che è possibile, e credo a questo punto anche l'impossibile, si sta facendo per garantire, Roberta, la sicurezza di questo appuntamento. Direi che nella conferenza stampa di circa un'ora fa, alla vigilia dell'amichevole di Udine di domani sera dell'Italia con la Spagna, direi che la frase più pregnante l'ha detta il capitano azzurro Gigi Buffon, ha detto: sarebbe disumano giocare a porte chiuse. E in questo aggettivo ha espresso bene, secondo me, il senso di straniamento che verrebbe da una partita a porte chiuse, perché in fondo, per quanto ci sia il business, per quanto gli interessi eccetera eccetera, il calcio, come tutti gli sport, rimangono una festa e tale deve essere. Senti, a proposito invece della paura degli attentati, oggi c'è arrivata la notizia che il giocatore argentino Suarez, che gioca in Belgio, ha detto: io ho paura per la mia famiglia, voglio lasciare il Belgio il prima possibile, ne ho parlato con la mia famiglia e con il mio procuratore. Eh sì, Suarez, Matteo Suarez è il centravanti dell'Anderlecht, che è la squadra principe del calcio belga e più importante di Bruxelles, squadra in cui tra l'altro gioca anche un azzurro, Stefano Caca, che in questo momento è appunto in ritiro con la nazionale. Beh, direi che credo che la posizione di Suarez sia legittima perché paura è un sentimento nobile. Devo dire, ma questa è considerazione strettamente personale che rimetto alla tua valutazione, anche a quella dei nostri amici in ascolto, è difficile immaginare un luogo sicuro a fronte di questo terrorismo così feroce e sanguinario, quindi è legittima la paura di Suarez. Il Belgio è sicuramente un crocevia di questa rete terroristica, un bersaglio dell'ISIS, ma certo quando gli obiettivi sono così poco sensibili rispetto invece a quella che è la tradizione di un certo terrorismo a cui in qualche modo eravamo abituati, ogni luogo diventa per alcuni aspetti pericoloso, no? Quindi pare irrevocabile questa decisione di Suarez, vabbè, vedremo nei prossimi giorni. Innanzitutto lui ha detto, come sai spesso le traduzioni vengono fatte in modo molto, molto rapido, lui ha detto, dice, ho la forte tentazione di lasciare il Belgio a fine stagione, ne ho parlato già con il mio procuratore e con la mia famiglia. Quindi per il momento è una tentazione, insomma, stiamo a vedere. Giugno. Credo insomma che sono anche parole dettate dalla tensione del momento e ripeto, si vedrà poi. Legittimo, insomma, legittimi, sì, ma è possibile. Grazie Dario Ricci, ciao Dario. Grazie a te, ciao. E vorrei anticipare con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, il nostro appuntamento del venerdì di solito col meteo, ma Paolo, qualcuno già parte domani, scuole chiuse, come sarà questa Pasqua, Pasquetta, eccetera? Allora, buonasera Roberto, buonasera a tutti. Intanto metto un po' le mani avanti, nel senso che insomma tutti sperano sempre nel bel tempo a Pasqua, ma la primavera è comunque una stagione molto variabile. Non ti giustificare. Fatto sta che variabilità sarà un po' la parola d'ordine, ma sarà più bello che brutto. Questa innanzitutto è una buona notizia e guarda, vediamo rapidamente i tre giorni del ponte. Si parte sabato con un po' di variabilità al centro-sud, ma perturbazione davvero poco intensa, veloce, quindi qualche nuvola di passaggio, brevi scrosci di pioggia, ma poca roba. Domenica ce la godiamo alla grande, sarà una bella giornata di sole in tutta Italia e tra l'altro anche particolarmente mite, quindi la Pasqua sarà ottima da nord a sud. A fine giornata però peggiora al nord-ovest e ahimè la Pasquetta della classica gita fuori porta al nord-est nell'Italia centrale sarà ancora una volta un po' variabile, ma sempre in un contesto di alternanza, di nuvole schiarite, insomma non nulla di tragico. Ho capito, il bicchiere mezzo pieno, ecco, diciamo così, di pioggia in certi casi. Ci risentiamo venerdì. Ciao Paolo Corazzon. Ciao Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Noi alle 22 invece.